storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Oh, buonasera a tutti e buona festa della mamma, perché oggi è stata la festa della mamma, anche se Antonio la ritiene una festa consumistica. Allora, buonasera da parte di Gesi. E Antonio. E Antonio, è vero che tu la ritieni una festa? Beh sì, io non ho nulla nei confronti di feste, che ritengo chiaramente, qualora mosse da uno spirito seriamente, diciamo, di riconoscenza nei confronti della mamma o di altri personaggi eccetera, non ho nulla in contrario. E quello che mi dà molto fastidio è la deriva consumistica che ne è, come dire, conseguita durante gli anni. Ma tutti aspettano qualcosa? Sì, ma non trovo che sia una questione di false aspettative, e occorre tornare a una parola d'ordine che si chiama, credo, sobrietà. Forse questo, certo. Esattamente. Infatti mio figlio, ad esempio, lui non è che ci faccia tanto caso a questa festa. Vabbè. Allora, Antonio, stasera parleremo di Padova. Esattamente. Ma allora saremo tu ed io. Yes, e cercheremo di dare un'illustrazione di questa splendida, certo, città. Certo. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici lontani e vicini, naturalmente, di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it, il numero di telefono per SMS, consigli, proposte e suggerimenti è il 346 26 20 033. Naturalmente ricordiamo che è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, e ringraziamo e salutiamo il nostro amico regista. Altro che. Allora, Antonio, prima di cominciare a parlare di Padova, ci ascoltiamo, come al solito, una canzone cantata da Umberto Marcato, che è un cantante proprio puro padovano, sì, proprio. E questa volta è proprio una vera canzone popolare, e si intitola Viento, Viento Mora. Sotto iano gara, dico la chitarra, mi col mandolin. Costa luna piena, viene da una giada, sento che sonata, che bel concertin. Se passa tanti anni, ma mi viene sempre in mente, quando se cantava, se rideva par niente. Mi che te cocoiamo, te voevo vissi, dico la chitarra, mi col mandolin. Viento, viento mora, sotto e a nogara, tico e a chitarra, mi col mandolin. Costa luna piena, che ne dà un'occiada, seto che sonata, che bel concertin. Ecco la fantasia, e a voglia di sonar, cantemo in allegria, non femo se pregar. Viento, viento mora, sotto e a nogara, tico e a chitarra, sotto qui a Nogara, prima di andare in letto, cantavino de sera, facevino il duetto, coeste che brillava, e a luna guardava, mi con un basetto, te dicevo così. Viento, viento mora, sotto e a Nogara, picco e a chitarra, mi col mandolin. Costa luna piena, che ne dà nociata, sento che sonata, fantasia e a voglia di sonar, cantemo in allegria, non femo se pregar. Viento, viento mora, sotto e a nogara, dico e a chitarra, mi col mandolin. Viento, viento mora, sotto e a nogara, dico e a chitarra, mi col mandolin. Costa luna piena, che ne dà un'occiata, se tocchi sonata, che bel concertin. Viento, viento mora, sotto la nogara, dico la chitarra, mi col mandolin. Costa luna piena, che ne dà un'occiata, sento che sonata, che bel concertin. Viento, viento. Eccoci di nuovo in studio. Cosa dici, Antonio? Cominciamo così a citare qualche personalità storica. Sì, naturalmente. Poi tu approfondirai. Allora, c'è Wolfgang Amadeus Mozart, che compose per la stagione quaresimale di Padova del 1771 la Betulia liberata, un oratorio sul libretto di Pietro Metastasio. Poi abbiamo la poetessa Vittoria Ganon, di origini armene ma naturalizzata italiana, e visse a Padova i suoi anni giovanili, e qui ebbe a maestro il poeta Giacomo Zanella, che per breve tempo resse la cattedra di professore in letteratura presso l'Università di Padova. Poi abbiamo William Shakespeare, che ambientò a Padova la bisbetica domata e definì la città euganea culla delle arti. Poi abbiamo Galileo Galilei, che ebbe a Padova la sua cattedra presso l'Università e qui rimase per più di un decennio. A Padova inventò e costruì il primo cannocchiale con cui redasse il primo trattato sulla volta celeste. La sua casa è ancora esistente nella via omonima. Il suo osservatorio non è nella medioevale torre dal nome Specola, come si crede. La Specola, all'epoca di Galileo, era ancora una torre del castello dei Carraresi. Galileo osservava il cielo dall'attuale portamolino, come ricorda una targa appunto che è stata deposta lì in questa via. La Specola è oggi sede del Dipartimento di Astronomia dell'Università. Nel 2009, per festeggiare i 400 anni dall'invenzione del cannocchiale, fecero molte manifestazioni e la chiamarono appunto l'anno galileiano. E poi abbiamo Bartolomeo Cristofori, che è un cembalista e che è inventore del pianoforte tra il 1698 e il 1700. Bene, a te la parola. Allora, tu hai citato il William Shakespeare, la bisbetica domata, in titolo originale The Taming of the Shrew, è una commedia del bardo divisa in 5 atti scritti sia in versi che in prosa. Incerta è la sua data di composizione, ritenuta antecedente al 1594. La vicenda narra di Petruccio, avventuriero veronese, che sposa e soggioga l'intrattabile Caterina di Padova, attirato soprattutto dalla sua dote. Nel prologo dell'opera, Sly, un popolano, viene trovato addormentato dopo una sbornia da un signore e dalla sua corte. Al suo risveglio, costoro gli fanno credere di essere lui stesso un aristocratico e loro i suoi servi. Quale parte degli intrattenimenti a lui dedicati, per Sly viene rappresentata una commedia da parte di un gruppo di attori girovaghi. In questa commedia, Lucenzio, giovane pisano, e Tranio, suo servo, discutono su quanto sia bella e dolce la figlia del mercante Battista Minola, Bianca, e di quanto sia invece rude, sgarbata e volgare sua sorella maggiore, Caterina, la bisbetica del titolo. Mentre Bianca è contesa tra i molti pretendenti che le fanno la corte, la sorella Caterina non vanta nessun precedente. In seguito, Battista Minola decide quindi di allontanare la figlia Bianca dalla società, fin tanto che Caterina non si sarà sposata. Tuttavia Lucenzio, perdutamente innamorato di Bianca, cerca di escogitare qualche sotterfugio per poter avvicinare la sua amata. Pertanto si scambia d'abiti con Tranio, il suo servo, così da poter diventare tutore in letteratura di Bianca. Frattanto, invece, Gremio e Ortensio, altri due pretendenti padovani, uniscono le loro forze per trovare un marito a Caterina. L'opera si conclude con uno smascheramento generale. Ortensio, Petruccio e Lucenzio decidono di sottoporre le mogli a una prova d'obbedienza. Chiamandole si presenta solo Caterina, alla quale verrà poi detto di recarsi da Bianca e dalla vedova, così da rammentare i doveri coniugali. E qui leggiamo qualche riga immortale di questa opera in originale. For the great desire I had to see fair Padua, nursery of arts, I'm arrived, and am to Padua come, as he that leaves a shallow plash to plunge in the deep, and with society seeks to quench his thirst. Per il grande desiderio che avevo di vedere la bella Padova, culla delle arti, sono arrivato, e da Padova sono venuto come chi lascia uno stagno per tuffarsi nel mare e da sazietà cerca di placare la sua sete. William Shakespeare, la bisbetica domata, atto primo, scena prima. Bene. Lo sai che ho dimenticato di dire un'altra cosa? Una particolarità di Padova sono i portici, ed è seconda dopo Bologna. I portici servivano appunto per attraversare la città e anche per servono tuttora, esatto, e anche per ripararsi dalla pioggia. E dopo lo vedremo anche la questione dei portici, eccetera. Però volevo completare questo piccolo inciso con un'altra personalità storica, Tito Livio. Sì. Della sua biografia si sa poco. Secondo San Girolamo nacque a Padova nel 59 a.C. Quintiliano ci ha tramandato la notizia che Asinio Pollone rilevava in Livio una certa patavinitas, padovanità o peculiarità padovana, che indica o come patina linguistica rivelatrice della sua origine provinciale o piuttosto l'accentuato moralismo tipico delle tendenze conservatrici della sua patria. Morì nel 17 d.C., anche se lo storico Ronald Syme anticipa le date di nascita e di morte di 5 anni. Girolamo infatti collega la nascita di Livio a quella di Messalla Corvino, nato prima del 59. Probabilmente l'errore è dovuto alla somiglianza dei nomi dei consoli dei due anni, Cesare e Figulo nel 64 e Cesare e Bibulo nel 59. Le fonti del luogo di nascita sono Marziale e Quintiliano. Della famiglia di origine si hanno poche notizie, benché probabilmente, a giudicare dall'ottima formazione culturale dello storico, era di condizioni agiate. Uno degli avvenimenti più importanti della sua vita fu il trasferimento a Roma per completare gli studi. Fu qui che entrò in stretti rapporti con Augusto, il quale, secondo Tacito, lo chiamava Pompeiano per il suo filo repubblicanesimo. Questo fatto non nocque comunque la loro amicizia, tanto che gli venne affidata dall'imperatore l'educazione del nipote e futuro imperatore Claudio. Si dedicò quindi alla redazione degli Ab Urbe Condita libri per celebrare Roma e il suo imperatore e si impose ben presto come uno dei più grandi storici del suo tempo. Fu anche autore di numerosi scritti di carattere filosofico e retorico andati perduti. Morì a Padova nel 17 d.C. secondo Girolamo o nel 12 d.C. secondo Syme. Benissimo. Vabbè, allora ci ascoltiamo una canzone. Benissimo. La seconda canzone in programma, che è intitolata Mamma Maria ed è cantata dai Ricchi e Poveri. Sarebbe bello se fossi un re.

e rappresenta la culla della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione delle relazioni tra la natura e la cultura. Ha largamente contribuito al progresso di numerose discipline scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, l'ecologia e la farmacia. La struttura odierna dell'orto mantiene sostanzialmente quella del progetto iniziale, opera di Daniele Barbaro, anche se presto modificata parzialmente dal Michiel. Un quadrato inscritto in un cerchio rimanda all'ideale di un hortus conclusus, luogo paradisiaco, destinato ad accogliere coloro che ricercassero il rapporto tra l'uomo e l'universo. L'orto ha attualmente una superficie di quasi 22.000 metri quadrati e contiene oltre 6.000 piante coltivate. La struttura è circondata da un muro circolare costruito nel 1552 per arginare i furti di erbe medicinali. All'interno quattro spalti sono a loro volta suddivisi in aule, in aiuole, chiedo scusa. Al centro una piscina per le piante acquatiche viene alimentata da un fiotto d'acqua calda proveniente da una falda posta a quasi 300 metri sotto il livello dell'orto. Numerose sono le piante introdotte per la prima volta in Italia attraverso l'orto botanico, fra queste il ginkgo biloba, la magnolia, la patata, il gelsomino, l'acacia e il girasole. Interessante però, eh? Beh, una volta usavano molto le erbe medicinali. Esatto. Cioè, si curavano erbe tutto officinali. A base, sì, officinali. Che, beh, per tutte le malattie, anche addirittura per curare una ferita, dicono che, insomma, avevano dei risultati. Esatto. Hai altro? Tu no, dici? Al momento no, diciamo no. Che... Allora, va bene. Allora, ci ascoltiamo la terza canzone che è... Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Allora, andiamo ad ascoltarci un po' di swing. Il re dello dal swing. Dal re dello swing. Esatto. Natalino Otto, Natale con ogni otto. Ci ascoltiamo allora questa canzone. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Io vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare. È una cosa, sai che cosa, che di notte misteriosa fa il mio cuore sospiroso, fa il mio cuore trepidare di passione. Mamma non so più che capriccioso ragazzino che gridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento un fremito nel cuore che oh mamma è il segnale dell'amore. È una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia ancora come un languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata se oh mamma non avrò la fidanzata. Fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognare. Sogno tremuli, bacin d'amore. Mamma voglio anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quella in sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata, sì. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Segnale dell'amore, nuova fiamma, dolce sentimento, che tormento. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata, fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognare. Sogno tremuli, bacin d'amore. Mamma, voglio anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quelle in sogno sospirare. Che mi stringa forte sul suo cuore innamorata, sì. Oh Oh mamma mi ci vuol la fidanzata. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata. Ed eccoci di nuovo in studio per parlare un po' più estesamente di questa straordinaria opera che è il Prato della Valle. Collocato immediatamente a sud dell'antico centro romano e della grande ansa del Medoacus, l'antico Brenta, secondo il suo vecchio alveo, il Prato fu uno dei principali punti di passaggio per giungere in città. Infatti qui confluivano le antiche piste paleo-venete che collegavano Patavium con Ateste, oggi Este, e con Adria. Nel campo di Marte, antico nome di Prato della Valle, si affacciavano importanti edifici come il teatro, chiamato Zairo, sul lato est e, secondo alcuni storici, anche il Tempio della Concordia e il Circo della città. Nel 304 la protomartire Giustina fu sepolta nell'area cimiteriale prossima all'area del Prato, per secoli usata dagli abitanti di Patavium. Nel IV secolo la devozione cristiana per Santa Giustina portò alla costruzione di un primo luogo di culto nei pressi della sua sepoltura. Da questo momento in poi le sorti del Prato si legano strettamente a quelle degli edifici sorti in onore di Santa Giustina. Nel 1767, al termine di un'aspra lotta, il Prato cambiò proprietario passando dal monastero di Santa Giustina all'amministrazione cittadina. Questo avvicendamento rappresentò il presupposto fondamentale per le trasformazioni successive, poiché l'amministrazione pubblica dovette d'ora in poi farsi carico dei secolari problemi di dissesto che gravavano sull'area. Infatti, nello stesso anno fu creata una magistratura ad hoc per occuparsi di quest'area, la Presidenza del Prato. Questa istituzione, composta da 4 notabili cittadini, ebbe lo scopo di gestire il Prato e garantire lo svolgimento delle manifestazioni in esso ospitate. Il suo ruolo nella successiva trasformazione dell'area fu però principalmente formale. Il vero artefice della trasformazione del Prato fu infatti Andrea Memmo, giunto in città con l'incarico di provveditore straordinario nel 1775. Il suo programma di governo per Padova si basò su 2 obiettivi essenziali: il rilancio commerciale e gli interventi di igiene pubblica. Essi trovarono una perfetta sintesi nel suo progetto per Prato della Valle. I lavori cominciarono nell'estate del 1775 per poter dare i primi risultati visibili in occasione della fiera autunnale di Santa Giustina. Altro punto di importanza straordinaria dal punto di vista culturale e non solo è naturalmente l'università, che è l'istituzione di maggior prestigio. L'università fu fondata nel 1222 da docenti e studenti provenienti da Bologna. Credo stanchi di stare a Bologna, quindi cercavano un endroit più confacente. L'edificio, in origine della famiglia Papa Fava, era poi passato sotto la proprietà di un macellaio quando questi, avendo fornito delle derrate di carne durante l'assedio della città, li aveva ricevuti in dono nel 1405 da Francesco I da Carrara, signore di Padova. Il macellaio gli aveva aperto una locanda, Hospitium Bovis, che aveva come insegna un teschio di bue. La proprietà dell'albergo del Bove passò successivamente nel 1539 all'università, ma l'appellativo di Palazzo del Bo è rimasto fino ai nostri giorni come emblema del teschio di bue. Nell'ala antica è conservato il teatro anatomico del 1594, unico nel suo genere, dove si potevano sezionare cadaveri a scopo scientifico. Sempre in quest'ala è la cattedra lignea dalla quale insegnava Galileo Galilei. Nel corso della sua lunga storia, l'Università di Padova fu luogo di incontro di alcune tra le più importanti personalità europee ed italiane, tra le cui fila si annoverano personaggi del calibro di Leon Battista Alberti, Niccolò Copernico e Melchiorre Cesarotti. Dal 1592, per 18 anni consecutivi, definiti dall'interessato i migliori della sua vita, Galileo Galilei resse la cattedra di matematica presso l'Ateneo Patavino. Nel medesimo, per la prima volta al mondo, 1678, si laureò una donna, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. William Harvey, l'illustre medico inglese cui si deve la prima descrizione scientifica del sistema circolatorio nel 1628, fu allievo a Padova di Girolamo Fabrici, Va peraltro ricordato che in questa città sorse il primo teatro anatomico, come si diceva, nel 1594, e il fondatore della scuola clinica padovana, Giovanni Battista del Monte, fu il primo medico a tenere le lezioni nelle corsie di un ospedale. Nel 2004 è stata istituita la Scuola Galileiana di Studi Superiori, con la collaborazione e sul modello della Scuola Normale Superiore di Pisa. Alla scuola si accede tramite un concorso molto selettivo. Gli studenti ammessi si iscrivono ai corsi dell'Università di Padova, ma in più hanno alcuni benefici, ad esempio vitto e alloggio presso un collegio universitario. Devono avere una media di esami particolarmente alta, almeno 27, ed in più devono frequentare obbligatoriamente alcuni corsi specifici. L'Ateneo gestisce anche 9 musei scientifici, tra cui il Museo di Storia della Fisica, ed è tra i membri fondatori del consorzio interuniversitario Cineca. L'università offre una larga gamma di lauree in 13 facoltà. Molto interessante. Allora, hai qualcos'altro? Direi che procediamo per un'altra cosa. Benissimo, allora facciamo la quarta canzone in programma, che è Viva la mamma di Edoardo Bennato. Sì. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei. Sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento. Antonio, e ci dedichiamo un pochino a una poetessa padovana del Cinquecento, ed è Gaspara Stampa, che nacque a Padova intorno al 1523, da una famiglia di origine milanese e di condizione borghese. Alla morte del padre, che era un orologiaio, la mamma Cecilia, con Gaspara e i fratelli Baldassarre e Cassandra, si trasferì a Venezia. Cassandra era cantante e Baldassarre poeta, però Baldassarre morì molto giovane, a 23 anni, e di lui restano i sonetti stampati con quelli della ben più nota sorella di Gaspara, insomma. E appunto Gaspara era sufficientemente colta nella letteratura e nella musica e fu portata dalla forte carica delle sue personalità a vivere in modo libero diverse esperienze amorose che segnano profondamente la sua vita e la sua produzione poetica. I romantici videro in lei una novella Saffo, anche per la sua breve esistenza, vissuta in maniera interamente passionale. La vicenda della poetessa va però ridimensionata e collocata nel quadro della vita moderna del tempo, dove le relazioni sociali, comprese quelle amorose, rispondono spesso a un cerimoniale e ad una serie di convenzioni. Logicamente, insomma, ogni epoca ha le sue convenzioni, le sue cose, vero? Certo. Fra queste è da segnalare l'amore per il conte Collaltino di Collalto, che durò circa 3 anni, dal 1548 al 1551, e si concluse con l'abbandono della poetessa, che attraversò a quel tempo una profonda crisi religiosa. Diciamo che la poetessa è morta molto giovane, perché è morta nel 1554, scusate, quindi ha soli 31 anni. Ed è per Collaltino è dedicata proprio la maggior parte delle rime della poetessa, che furono pubblicate dalla sorella nel medesimo anno della morte. E erano concepite secondo il modello petrarchesco e costituiscono appunto una delle più interessanti raccolte liriche del Cinquecento, fra cui Arsi, piansi, cantai, piango, ardo e canto. Daniele Ponchiroli ha definito queste rime umanamente, questo canzoniere appunto l'ha definito umanamente complesso, ricco di moderna psicologia. Pensa un po', anche allora lei forse precorreva i tempi. Esatto, un po' troppo sui tempi. Il canzoniere della stampa che la nostra romantica sensibilità ha visto soprattutto come un ardente diario amoroso, e appunto risente dell'inquieta originalità di una vicenda umana confessata con femminile espansione. Dice anche che nessun altro canzoniere cinquecentesco ci offre un così vivo interesse documentario e psicologico. Benissimo. Adesso qui il problema sta nel leggere qualche rima di Gaspara Stampa. Beh, diciamo che le sue rime, come dicevamo prima, riguardano il suo amore più che altro per il conte Collaltino, no? E vabbè, adesso leggiamo, ci proviamo, a voce alterna. Questa qui dice così: voi che marmi in colori, in bronzo, in cera imitate e vincete la natura, formando questa e quell'altra figura che poi somigli alla sua forma vera, venite tutti in graziosa schiera a formare la più bella creatura che facesse già mai la prima cura, poi che con le sue man fè la primiera. Ritraggete il mio conte e sia vi a mente quale è dentro ritrarlo e quale è fore. Sì che a tanta opera non manchi niente. Fategli solamente doppio il cuore, come vedrete che egli ha veramente il suo e il mio, che gli ha donato amore. Rivolgete talor pietoso gli occhi dalle vostre bellezze alle mie pene, sì che quanta alterezza indi vi viene, tanta quindi pietate il cor vi tocchi. Vedrete qual martir indi mi fiocchi, vedrete vote le faretre e piene che preste ad anni miei sempre amor tiene, quando avvien che ver me l'arco suo scocchi, e forse la pietà del mio tormento vi muoverà, dovor ne gite altero, non lo vedendo voi, qual io lo sento. Così pensosa io meno e men voi fiero ritornerete, e cento volte cento benedirete i ciel che mi vidiero. Beh, diciamo che qui parla di un amore, dell'amore sofferto, diciamo, no? Se nella prima poesia parla così, è tutta entusiasta di poter figurare in una statua questo suo conte bellissimo, qui invece soffre le pene d'amore. Sì. E ringrazio la Elisa Salaborin che mi ha scelto lei questi tre brani, queste tre poesie. Leggiamo l'ultimo. Il bel che fora per gli occhi appare è il vago del mio signor del suo dolce viso, è tanto e tal che fa restar conquiso ognun che il mira di gran lunga e pago, ma se quale è un cerviero occhio e mago potesse altri mirare intento e fiso quel che fuor non si mostra un paradiso, di meraviglia vi vedrebbe un lago. E le donne non pur, ma gli animali, l'erbe, le piante, l'onde, i venti, i sassi, farian arder d'amor gli occhi fatali. Quest'una grazia agli occhi miei soldassi, in guiderdon di tanti e tanti mali, per onde a tanto ben poggiando vassi. Anche qui insomma c'è un po' di dolore, anche qui insomma si sente le pene d'amore, che nonostante esalti il suo uomo, che addirittura oggi nessuno scriverebbe più così, vero? E lo stile è cambiato radicalmente, diciamo, ecco. Vabbè, allora tu hai qualcosa da leggere prima di passare alla... Direi che potremmo passare alla prossima canzone. Alla prossima canzone. Di Toto Cutugno. Sì, che è... Le mamme. Ecco, benissimo. Braccia grandi per abbandonarmi dentro, se la notte avevo un po' paura. Occhi profondi per cui ero un libro aperto, senza dire neanche una parola. Aveva mille modi buoni per svegliarmi, quando non volevo andare a scuola. E mi chiedevo, mentre le guardavo i piedi, questo angelo perché non vola. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. E così piccolo io avrei affrontato il mondo, vuoi chi si avvicina e chi la tocca. E che parole dolci come quelle torte al forno, che veniva l'acquolina in bocca. Mi rimboccava fino al naso le coperte, se pioveva avevo un po' paura. E mi tuffavo nel suo letto a braccia aperte, ad ogni tuono forte mi stringeva. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quel treno sulla ferrovia. Parlano e sognano del figlio che è lontano davanti a una fotografia. le mamme piangono e si asciugano gli occhiali mentre gli anni se ne vanno via. Se pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri, che malinconia. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma ti amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, amano di più. Con il nostro, con la nostra, diciamo, disamina dei luoghi topici di Padova, con la Cappella degli Scrovegni, detta anche dell'Arena, che si trova nel centro storico di Padova e ospita un celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto dei primi del XIV secolo, considerato uno dei capolavori dell'arte occidentale. Internamente lunga 29,26 metri, larga 12,80 e alta 8,48 nel punto maggiore. Intitolata a Santa Maria della Carità, la cappella fu fatta costruire e affrescare tra il 1303 e i primi mesi del 1305 da Enrico Scrovegni, ricchissimo banchiere padovano, a beneficio della sua famiglia e dell'intera popolazione cittadina. Lo Scrovegni, nel febbraio del 1300, aveva acquistato da Manfredo d'Alesmanini l'intera area dell'antica arena romana di Padova e aveva eretto un sontuoso palazzo di cui la cappella era l'oratorio privato e il futuro mausoleo familiare. Incaricò di affrescare la cappella il fiorentino Giotto, il quale, dopo aver lavorato con i francescani di Assisi e di Rimini, era a Padova, chiamato forse dai frati minori conventuali, a dipingere qualcosa presso la loro basilica di Sant'Antonio. Giotto dipinse l'intera superficie interna dell'oratorio con un progetto iconografico e decorativo unitario, ispirato da un teologo agostiniano di raffinata competenza, recentemente identificato in Alberto da Padova. Tra le fonti utilizzate vi sono molti testi agostiniani, i Vangeli apocrifi dello pseudo Matteo e di Nicodemo, la leggenda aurea di Jacopo da Varazze e, per i piccoli dettagli iconografici, le meditazioni sulla vita di Gesù dello pseudo Bonaventura, oltre a testi della tradizione medievale cristiana, tra cui il Fisiologo. La cappella venne dedicata alla Vergine della Carità, tema caro alla confraternita dei frati gaudenti di cui faceva parte Enrico degli Scrovegni. Essi infatti si dedicavano a combattere l'usura. Enrico era un banchiere ricchissimo e suo padre, Reginaldo, era stato collocato da Dante nell'inferno proprio tra gli usurai. Quindi la grande spesa effettuata per costruire e decorare la cappella permetteva di lavare il peccato di aver accumulato denari con transazioni bancarie senza la fatica del lavoro. Ci ricorda qualcosa oggi, forse. Inoltre i frati erano particolarmente devoti a Maria, il che spiega la ricchezza di scene sul ciclo mariano, la più vasta fino ad allora dipinta. San Giuseppe e Gioacchino, inoltre, protagonisti di diverse scene, erano inoltre importanti exempla virtutis di uomini casti anche se sposati, proprio come lo Scrovegni. Nel 1305, quando i lavori alla cappella stavano per concludersi, gli eremitani, che vivevano in un convento lì vicino, protestarono con veemenza perché la costruzione della cappella, andando oltre gli accordi presi, si stava trasformando da oratorio in una vera e propria chiesa con campanile e forme ritenute all'epoca eccessivamente visibili. Non risulta noto come la vicenda si sia conclusa. Forse in seguito a queste rimostranze la chiesa fu ridotta in dimensioni, con l'abbattimento della monumentale parte absidale con ampio transetto, documentata nel modellino dipinto da Giotto nell'affresco in controfacciata, dove lo Scrovegni aveva progettato di inserire il proprio mausoleo sepolcrale. La datazione più tarda degli affreschi dell'abside, nel 1320, confermerebbe questa ipotesi. È certo comunque che l'attuale campanile, vicino alla Cappella degli Scrovegni, non è originale. La cappella, acquisita dalla Municipalità di Padova nel 1880, era originariamente collegata attraverso un ingresso laterale al Palazzo Scrovegni, oggi non più esistente, che era stato fatto erigere seguendo il tracciato ellittico dei resti della vicina arena romana che oggi costituisce il giardino antistante l'edificio. Fin dall'Ottocento la cappella fu oggetto di restauri fortunatamente scrupolosi, che ne hanno garantito uno stato di conservazione molto buono. Interessante, cose che non sapevo. Ascolta, dici che sia il caso di leggere una piccola favolina o di andare avanti a leggere qualcos'altro? Ma potremmo anche leggere della Basilica di Santa Giustina per completare un po' i luoghi. Va bene, allora leggiamo la Basilica di Santa Giustina. Il grandioso e celebre Tempio di Santa Giustina, che secondo alcuni studiosi sorgerebbe sulle rovine di un tempio pagano, è la più importante opera architettonica di Padova e il più antico luogo di culto della città. La chiesa, straordinariamente affascinante per la sua posizione laterale e asimmetrica rispetto a Prato della Valle, venne fondata intorno al V secolo su un luogo cimiteriale in memoria della martire Giustina, una giovane patrizia cittadina che fu martirizzata nel 304 nella feroce persecuzione di Massimiliano. Secondo la tradizione, il padre della martire, Vitaliano, alto funzionario imperiale che pare fosse stato convertito al cristianesimo da San Prosdocimo, fece costruire il primo nucleo della chiesa che sarebbe diventata la sede della prima cattedrale della città cristiana. Alla chiesa fu annesso successivamente un monastero benedettino e il complesso si arricchì progressivamente di beni e reliquie. Dopo la ricostruzione a seguito del terremoto del 1117, la chiesa fu demolita nel 1502 per dar posto all'attuale colosso, realizzato tra il 1532 e il 1579 da diversi architetti, in particolare da Andrea Moroni e Andrea Davalle. La facciata, che sarebbe dovuta essere ricoperta di marmo, probabilmente bianco, non fu mai portata a termine. Sulla gradinata si possono ammirare due grifi in marmo rosso di Verona, appartenenti al portale duecentesco. Furono inoltre necessari 85 anni per arrivare alla copertura del tetto, che richiese enormi quantità di denaro e di materiali. Ed è per queste ragioni che quando si pensa a un lavoro interminabile si dice «longo come a fabbrica de Santa Giustina». Il ricco monastero, che in passato accolse personaggi illustri e papi, fu soppresso da Napoleone Bonaparte nel 1818 e trasformato in caserma e ospedale militare. Ritornò ai monaci nel 1919 e fu eretto nuovamente in abbazia nel 1943. È possibile visitarne il chiostro del capitolo, costruito nel XII secolo in stile romanico, e il chiostro maggiore, chiamato anche chiostro dipinto, per i molti affreschi che lo decoravano. Però ci sono tante belle cose da vedere anche a Padova. Ci sono cose molto poco conosciute o comunque non conosciute, come dovrebbero essere, chiaramente. Io sono una città ricca di arte, di storia. Sono stata alla Basilica di Sant'Antonio, quella sì, diversa. Naturalmente, però, che fa un po' ombra, diciamo, a Santa Giustina da un punto di vista della, come dice, della fama, se vogliamo, imperitura del santo, naturalmente. Santa Giustina è certamente un luogo notevole. Comunque anche a Padova veramente ci sarebbe tanto da vedere. Da vedere, decisamente. E anche, specialmente avendo una guida che ti spiega. Certamente. Sì. Oppure preparandosi prima bene. Leggendo magari qualcosa. Così. Iconografie, eccetera. Bene, facciamo in tempo un'altra canzone. Un'altra canzone, direi che è l'ultima. Allora, ormai siamo in dirittura d'arrivo con... Allora. Un bene. Anna Identici. Esatto. Che ci canterà Un bene grande così. Che esiste nel mondo. prendevi nel letto dei grandi, se c'erano i buoni ed avevo paura. Mille modi di volere bene, che adesso più grande comincio a capire. Anch'io ti voglio bene, un bene grande così. Perché sei la mia mamma. Eccoci di nuovo in studio. Oh, Antonio, finiamo con una favolina di La Fontaine. Esatto, della Mariuccia Bazzaro. Cante, conte e tiritere. La volpe e il becco. La volpe, che far furbissia se vece e patentà, l'andava un certo di per una via in compagnia di un becco, un animale che oltre che becco, c'era anche bastonà. Morti de sen i vasoso par bevarse via in un posso, e tutti do se cava a pivia. Ma poi che dice a volpe: adesso, messere, che tutti i doghe bevuo, a roba più difficile se qui ad andare fuori. A parer mio, ti te dovresti alzare i pie e puntare i corni contro il muro, finché potesse pontearmi de sora a toschena e venir fuori prima al sicuro. Una volta fuori, cavarò anche a ti da sto ingiotauro. Parame barba, disse il buon cavaron, sto qua se chiama a verghe de Sarveo. Sortì a volpe, al stupido bestion resta in tel fondo, a gavo suo pare il zimbeo, recitare a morae con un sermon. Gabbi pazienza, non te saresti a moia se te gavessi manco barba e più sarveo. As ciao, beo, mio ormai me cato fora. Quanto a ti, sforzate se te puoi, mi vago con un affare de premura. In tutti i cavoi tui, sempre, a fine, de vardar procura. No, non ho capito bene la finale. Bisogna stare, di farsi i fatti propri, naturalmente, sì. senza pretendere e senza aspettarsi, soprattutto, che altri possano cavarti le castagne dal fuoco. Io sono d'accordo su questa cosa qui. Ognuno dovrebbe farsi Che sono fatti di vita vissuta. Ma non è sempre così, eh? No, diciamo che però è una buona, come dire, è un buon suggerimento, appunto, vorrei dire. Perché la gente si fa spesso i cavoli degli altri, più che i cavoli propri. Esattamente. Va bene. Adesso, questi sono tempi così. Vabbè, insomma, o tempora o mores. L'importante, diciamo, è andare avanti dritti per la propria strada. E soprattutto cercare di vivere in serenità, nonostante i tempi. Io noto effettivamente questa mortificazione generalizzata, che non ha motivo di essere. Siamo tristi. Non ha motivo di essere. Roosevelt un tempo, quando era il momento proprio drammatico, diceva: l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura. Ma guarda che brutta la paura, sai? Ma diciamo che non ha motivo di essere, non ha motivo di essere. Noi dobbiamo avere spirito ed entusiasmo. È vero, questo. Ma non sempre la razionalità. Assolutamente vero, è per quello che bisogna recuperarla. Vabbè. Allora, Antonio, anche stasera abbiamo finito e come sempre ti ringrazio e diamo la buonanotte con te e con il regista nostro Eddie Daici. Alla prossima domenica. Ecco, e diamo la buonanotte a tutti. Ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.